Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ma eccoci insieme, buongiorno a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Filippa Oreggi oggi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Andiamo a sentire i temi di cui ci occupiamo oggi. Salute della bocca, non fermarti ai denti. Occupati anche di lingua, gengive e mucose. Donazione di sangue, volontà ricercasi. Il Pilates si prende cura del tuo collo. Bocca sana, in corpore sano. Insomma, mi piace iniziare così la puntata di oggi, in cui ci occuperemo soprattutto di gengive, mucosa e lingua, che spesso trascuriamo perché siamo più interessati ai nostri denti. Parleremo naturalmente anche di loro e in particolare di un disturbo in crescita che è l'erosione. Ma intanto vi chiedo, se potete farlo ora, di osservare le vostre gengive, le vostre mucose e la vostra lingua. Qui in studio con me è tornato a trovarci il professor Luca Levrini, che è presidente del corso di laurea in igiene dentale all'Università dell'Insubria e dirigente medico universitario all'ospedale di Circolo di Varese. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti. Prof, la metto subito al lavoro, allora guidiamo i nostri amici da casa. Iniziamo dalle mucose interne, no? Quelle che tappezzano le nostre guance. Certo, le guance, ecco. La lingua, le gengive. È importante guardarne l'aspetto, ma più che altro guardare se ci sono eventuali differenze di colore o di forma rispetto alle zone circostanti. Allora, lei ha citato le gengive. Noi tutti sappiamo che quelle sane sono rosate e ben aderenti, ma professor Levrini, ci sono altri dettagli che magari sfuggono all'occhio che non è clinico e che invece lei dovrebbe insegnarci a guardare e osservare con attenzione? Certo, giustissimo. Una parola chiave è il colore. Il colore delle gengive, lei ha detto, deve essere rosa, perché se diventa rosso acceso significa che le gengive sono infiammate, poiché aumenta la vascolarizzazione del sangue e si tratta di gengivite. Gengive infiammate, suffisso ite ci aiuta, sì, sempre. Sì, come appendicite, bronchite e via dicendo. L'altra cosa, ha detto la forma, deve essere piana e adesa, ma c'è un segno clinico che è fondamentale delle gengive, cioè il sanguinamento, sì, che è il campanello d'allarme patognomonico di gengivite. Se ci spazziniamo i denti, questi non devono mai e poi mai sanguinare. Se sanguinano, c'è gengivite. E adesso, professore, fuori la lingua. Un tempo per i medici era un indicatore prezioso e ancora oggi osservarle bene ha tante cose da raccontare. Professore. Bisogna guardarla la lingua. Innanzitutto guardarne il colore. La lingua può essere bianca. E se è bianca significa che c'è un deposito che si chiama patina linguale, fatto di batteri ma anche di cellule di sfaldamento che ricopre la lingua. Questa in genere è presente nella parte più posteriore della lingua. Sì. E in questi casi bisogna pulirla. La lingua bisogna sempre pulirla dalla parte posteriore verso l'esterno, anche con il semplice spazzolino. Perché è importante pulire la lingua e togliere questa patina linguale? Per due motivi. Il primo motivo è quello noto, cioè la litosi. Se uno ha la patina linguale, di fatto ha questo problema che ancora investe quasi il 50% della popolazione italiana. Ma più che altro, e specialmente negli anziani, togliere la patina linguale significa dare più gusto e piacere all'assunzione di cibi, poiché la patina linguale ricopre le papille gustative e quindi Le addormenta un pochino, quindi l'anziano di fatto sente meno sapori. La lingua può essere bianca ma può essere anche rossa. Nel caso in cui diventi rossa ma più che altro liscia, è infiammata, si parla di glossite, ancora il suffisso ite che ritorna. Perché liscia? Perché nel momento in cui la lingua si infiamma le papille gustative vengono meno, papille gustative che danno quel tipico aspetto un po' frastagliato, sì, della lingua. Professore, io vorrei oggi parlare anche di saliva, che è il lubrificante di mucose gengive, un po' come le lacrime sono per gli occhi. E come le lacrime, ha la saliva un ruolo molto importante per la salute e il benessere della nostra bocca, denti compresi. È fondamentale. La saliva è per il 98% di acqua, ma per il resto quel 2% è un condensato di sostanze utilissime. La saliva serve, lo sappiamo, a umettare, a essere un solvente, ma anche azione antibatterica e digestiva. E quando manca un problema, per cui nel momento in cui il paziente ha la bocca asciutta, quindi ha quella che si chiama xerostomia, è un problema perché vengono meno le funzioni della saliva. Il paziente che ha xerostomia, e ricordo ancora l'anziano perché ne soffre circa il 20%, ha difficoltà a parlare, a mangiare, a ulcere, a carie, più del paziente che hanno invece una buona salivazione. Allora cosa fare? Questi pazienti devono bere piccoli sorsi d'acqua, mangiare delle gomme da masticare e, se desiderano, utilizzare dei sostituti salivari, cioè delle sostanze che vengono messe in forma di gel nelle mucose che in qualche modo superano questo problema, che è importante. All'opposto la lingua può anche bruciare, si chiama sindrome della bocca urente. Non c'è tanto da dire, perché di fatto non c'è una terapia specifica. Bisogna sicuramente tranquillizzare, poiché di fatto in genere sempre si ha una remissione spontanea della sensazione, perché è un problema assolutamente benigno senza nessun tipo di problema. Però molto molto fastidioso. Io ricordo molto delle mail di ascoltatrici. È un problema più al femminile o al maschile? Femminile. Ecco. Assolutamente infatti. Femminile e nell'anziano. E nell'anziano, purtroppo. 824 0024, quindi osservate bene la mucosa, le gengive, la lingua, parlateci anche della vostra saliva, non trascureremo i denti, perché parleremo di questo fenomeno in crescita, di cui si parla un po' pochino, che è l'erosione. Insomma, ogni volta che mangiamo c'è una sorta di battaglia chimica all'interno della nostra bocca, e lo smalto a volte può deteriorarsi. 824 0024. Una mela al giorno. E noi, e lo faccio con grande piacere, torniamo a parlare di donazione del sangue. Tutti sappiamo che c'è bisogno di sangue tutto l'anno, ma in alcuni periodi dell'anno, e l'estate è proprio uno di queste, la richiesta aumenta. In linea con noi per lanciare un appello il professor Giuliano Grazzini, che è direttore del Centro Nazionale del Sangue. Professore, bentornato, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletti, e a tutti gli ascoltatori. Professore, allora, donazione di sangue, volontari cercasi. Questo abbiamo messo nel titolo del nostro sommario, un appello che rivolgiamo a tutti gli italiani, perché c'è bisogno di noi, vero professore? Assolutamente sì, come lei ha ben detto in esordio del nostro discorso, del sangue c'è bisogno tutto l'anno nel modo più assoluto, ma in estate, in particolare in un'estate come questa e come diversi anni si propone, con un caldo afoso così importante, così perdurante, è ovvio che noi registriamo un forte calo di donazioni presso i nostri servizi trasfusionali e le nostre unità di raccolta. Quindi veramente un forte appello a tutti i cittadini che sono in grado di donare il sangue, lo sono moltissimi, perché noi ricordiamo molto brevemente quali sono i requisiti per donare il sangue: la maggiore età fino a 65 anni, pesare almeno 50 kg come peso corporeo, essere in buona salute e anche avere una voce dall'interno che stimola questo piccolo grande atto di solidarietà che salva vite umane tutti i giorni. Noi in Italia abbiamo bisogno di oltre 10.000 unità di sangue al giorno, e quindi sono numeri veramente grandi, dove grande deve essere la solidarietà di tutti i cittadini. È scesa in campo anche per rivolgersi ai giovani, per far crescere nei giovani la cultura della donazione, il ministro della gioventù Giorgia Meloni, che è in linea con noi. Grazie, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie a voi. Allora, un appello che rivolgiamo anche ai giovani, i diciottenni. Dopo aver dato la maturità, andate a votare, adesso che siete maturi, ragazzi, questo potremmo dire, no? Ai nostri figli, andate a donare. A donare, sì, no, assolutamente. Io penso che, aggiungendomi a quello che stavo detto finora, e quindi sicuramente il piano della solidarietà, però c'è anche da ricordare che la donazione del sangue è una cosa facile, è una cosa veloce, indolore, e è anche conveniente, nel senso che ci aiuta anche a conoscere, a sapere tutto quello che c'è da sapere sul nostro sangue senza doverci recare a fare delle apposite analisi. Quindi è anche una cosa utile per noi, oltre che utile per gli altri, vale la pena ricordarlo, perché davvero si fanno tante cose insieme. Penso che se si comincia a farlo, poi una volta è capitato a me, poi alla fine non si smette mai, e si fa una cosa utilissima per gli altri, ripeto, per sé. Grazie al ministro della gioventù Giorgia Meloni. Professor Grazzini, vogliamo aggiungere ancora un'indicazione? Sì, aggiungiamo un'indicazione. Io mi riallaccio a quello che diceva il ministro sul fatto che ogni atto di donazione, oltre a costituire un piccolo grande atto di solidarietà che può essere fatto in modo assolutamente indolore molto facilmente, aggiunge una cosa molto importante, che è la prevenzione per la nostra salute. In occasione di ogni donazione, infatti, viene fatta una visita medica, vengono fatte tutta una serie di accertamenti di base che, fra l'altro, la persona sana non tenderebbe a fare, in quanto se si propone la donazione indubbiamente è in buona salute e si sente in forma. Però possono esserci alcune situazioni che non si vedono, di cui il soggetto non si accorge, che può essere veramente estremamente utile rilevare durante la donazione. Si può andare a donare presso tutti i centri trasfusionali degli ospedali. Abbiamo in Italia quasi 300 strutture che possono recepire i nostri donatori, e anche le persone che non lo sono ancora e che intendono diventarlo e che auspichiamo poi lo rimangano donatori periodici, e abbiamo anche quasi 2000 unità di raccolta gestite anche dalle associazioni di volontariato presenti su tutto il territorio nazionale, quindi praticamente ad ogni angolo è possibile farlo. Per informarsi si può telefonare agli ospedali, ai servizi trasfusionali, alle associazioni del volontariato, le più grandi, sono moltissime in Italia, ma le più grandi sono Avis, Fidas, Fratres e Croce Rossa. Si può andare anche sul sito nostro del Centro Nazionale Sangue, che è www.centronazionalesangue.it, e lì si possono avere tutte le informazioni inerenti anche agli esami che vengono fatti, inerenti a tutto quello che è il percorso per la donazione, che, ripeto, è estremamente semplice, è un atto semplice, assolutamente innocuo e che dà veramente un grande vantaggio di medicina preventiva per la nostra salute. Professor Grassini, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie, finite, arrivederci, salve, salve. Pronto soccorso. E noi torniamo al tema di oggi. Oggi parliamo di mucose, gengive, lingue, insieme al professor Leverini. Angela ci scrive: le mie gengive sono belle rosate, ben aderenti, ma appena passo il filo interdentale sanguinano. Professor Leverini, lei ha detto le gengive non devono mai sanguinare. Angela dice: le mie sono belle, ben adese, perfette, passo il filo, e tanto ci sono delle persone che proprio rinunciano a passare il filo interdentale perché le gengive si infiammano, appunto sanguinano. Innanzitutto i complimenti a Angela, perché rappresenta effettivamente quel 3% della popolazione italiana che in modo continuativo e quotidiano utilizzano questo importante strumento. Cosa posso suggerire ad Angela? Posso suggerire innanzitutto di verificare che non sia presente anche un modesto grado di gengivite, poiché anche se la sua gengiva è aderente, sana, può darsi che ci sia quella che si chiama gengivite marginale, cioè sì, proprio un orletto rosso del dente che inizia a essere in patologia e quindi gengivite. Di rivedere il corretto funzionamento del filo interdentale, perché se è vero che lo utilizza il 3% degli italiani, c'è un 97% che non utilizza perché è molto difficile utilizzare il filo interdentale. E per ultimo, al limite, sostituire il filo interdentale con degli scovolini. Gli scovolini probabilmente nel futuro andranno a sostituire il filo interdentale, perché non solo puliscono meglio lo spazio tra dente e dente, ma massaggiano e puliscono anche quella parte di gengiva che è inserita in questo spazio così importante. Professore, cerato o naturale? Qual è meglio? Il filo cerato scivola meglio, però pulisce meno rispetto a quello non cerato, sì, e quindi di fatto anche qua non c'è una indicazione corretta da darsi. Io personalmente preferisco il cerato, ecco. Sì, ma riguardo alla tecnica, c'è una tecnica precisa che non viene insegnata, ma se lei, certo, ci spiega i fondamentali, riusciamo a pulire bene con il filo, certo, interdentale lo spazio tra i denti senza far sanguinare le gengive, perché, certo, talvolta siamo proprio noi che ci procuriamo delle lesioni perché andiamo, no, siamo un po' troppo aggressivi. Come si passa al filo interdentale? Innanzitutto deve essere chiaro il concetto che utilizzare il filo interdentale non significa passare il filo interdentale nello spazio che c'è tra dente e dente, perché di fatto bisogna far passare sì il filo tra questo spazio, ma poi bisogna avvolgere il dente a C, abbracciarlo quasi, e piano piano con dei movimenti di va e vieni farlo scomparire al di sotto della gengiva. Il filo interdentale non deve toccare la gengiva, deve andare a inserirsi nello spazio tra gengiva e dente. Ora, questa cosa non è così semplice da fare, ma soprattutto, come ho detto, in genere uno passa più dente dentale, passa nello spazio che c'è tra dente e dente, poi lo toglie. E ma invece questo deve camminare, assolutamente salire camminare, su. Salire su con un momento di vai e vieni delicato, dente a dente. Ma se ho le gengive che sanguinano e sono abituata a usare il filo interdentale, continuo o smetto? Bisogna continuare assolutamente, però dopo aver bonificato l'aria, quindi aver fatto un'adeguata igiene orale e rimosso i fattori che causano la gengivite. Abbiamo in linea con noi Gerardo, ci chiama dalla provincia di Foggia. Buongiorno Gerardo, benvenuto. Buongiorno e grazie. Buongiorno. Volevo chiedere un'informazione al suo ospite. Io non ho problemi di carie fondamentalmente, però cosa mi rendo conto che soprattutto nella parte bassa della bocca, diciamo, c'ho le gengive che non le sento attaccate bene ai denti, le vedo che regrediscono e non sono salde attaccate ai denti. Volevo sapere se era possibile fare qualcosa, ecco. Lei ha una gengivite, quindi le sue gengive sono infiammate e non rimangono adese al denti così come dovrebbero essere. Quindi la prima cosa da fare è andare presso uno studio odontoiatrico e magari incontrare un'igienista dentale laureata che possa in qualche modo pulirle in modo adeguato i denti, quindi rimuovendo il tartaro che si vede e che non si vede che sta sotto la gengiva. Quindi riceve dall'igienista le informazioni utili affinché questa cosa possa arrestarsi e risolversi. Ricordo una cosa, la gengivite, quindi l'infiammazione della gengiva, è una patologia reversibile che con semplici igiene orali, professionali e non, regredisce. La parodontite, probabilmente della quale lei è affetto, è una patologia che purtroppo non dà una restituzione ad interum, quindi purtroppo non riporta i tessuti così come erano in precedenza, quindi i denti ballano e via dicendo. Però si può arrestare. La gengivite si arresta, la parodontite si può arrestare nel momento in cui si interrompe questa catena che porta purtroppo, se non curata adeguatamente, alla perdita del dente. Era quello che un tempo chiamavate piorrea. Era un tempo quella che noi chiamavamo piorrea, che adesso chiamiamo parodontite. Oltre a cambiare nome, avete capito di più di questa malattia? Ma certo, l'evoluzione è stata sicuramente importante. Un tempo si tagliavano le gengive, sì. Oggi non si tagliano più le gengive. Oggi si adottano delle manovre di igiene orale professionale che vanno a andare a eliminare il tartaro che sta sotto la gengiva, che sta in modo profondo tra la gengiva e il dente. E rimuovere è doloroso questo trattamento, professore? È fastidioso. Se effettuato in maniera corretta, quando un dentista dice fastidioso vuol dire che fa male? Beh, si può fare sempre un'anestesia locale. Bene, senso. E c'è un motivo in più per prenderci cura della nostra bocca. A guadagnarci ci sarà anche il nostro cuore. Ne parliamo con il professor Alessandro Lualdi, che è responsabile dell'unità operativa di cardiologia invasiva 3 del Centro Cardiologico Monzino di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno anche buongiorno. A tutti gli ascoltatori. Professore, tra bocca e cuore c'è un legame molto stretto, tanto che si potrebbe dire chi ha a cuore la salute della propria bocca protegge il suo cuore. E così le ricerche ormai lo dimostrano, ma ci spiega bene perché è importante, quale e come si gioca questa relazione? Sì, è una relazione non semplice da scoprire. Comunque la letteratura scientifica recentemente ha fatto luce su questi aspetti. In particolare è stato pubblicato negli ultimissimi tempi un lavoro scozzese che dimostra come l'attenzione per l'igiene orale porta ad una riduzione anche del 70% dell'infarto, dell'angina, della trombosi. E questa attenzione all'igienerale era semplicemente calcolata dal numero di volte in cui il paziente, il soggetto, si lavava i denti o dal numero di volte che ricorreva al dentista per l'igiene orale. Sì. Quindi una maggiore attenzione per l'igiene orale, 70% di rischio in meno di infartuare. Quindi un cuore sano, in ore sano, in una bocca sana. Ecco. Professore, ma com'è possibile che, ad esempio, una malattia cronica delle gengive, ex piorrea, parodontite, come si chiama oggi, possa in qualche modo essere un fattore di rischio per l'angina o per l'infarto? Che cosa succede? A sostegno di questa correlazione ci sono diversi lavori da 15 anni. In genere le malattie croniche si correlano molto spesso tra di loro, non solo tra parodontopatia o patologia aterosclerotica, che è una patologia cronica delle arterie, ma anche molte altre patologie. Ma i meccanismi tutto sono map non sono molto difficili da andare a comprendere e indagare. La prima causa, ed è una causa accertata, è lo stato di ipercoagulabilità. Cosa succede? Nel paziente con una patologia infiammatoria del cavo orale, in particolare una periodontopatia, c'è una carica microbica particolarmente elevata. Alcuni di questi batteri sono in grado di attivare le piastrine. Si immagini un paziente con un'alta carica microbica che può anche entrare in circolo, e perché entrano in circolo i batteri, il guaio è che i batteri della tasca, della piorea, i batteri della periodontopatia possono entrare in circolo. Ecco, in circolo attivano le piastrine attivate non fanno che aderire tra di loro, e le piastrine sono quei mattoncini che formano poi quei tappi che sono i trombi che possono occludere le arterie. Quindi attivano l'infiammazione, attiva l'aggregazione piastrinica, attiva la coagulazione, attiva la trombosi. C'è poi un'altra causa, che è l'esagerata risposta infiammatoria. In questi pazienti dove c'è questa infiammazione sono espresse in modo abnorme le citochine pro-infiammatorie, tra queste la proteina C. Quella proteina C è stata estesamente indagata da noi cardiologi, perché la proteina C si correla in modo assolutamente stretto e lineare con l'infarto. Maggiore la proteina C, il valore di proteina C, maggiore è il rischio infartuale. Quindi questi processi infiammatori attivano sia la possibilità dell'infarto, sia la possibilità di avere trombosi. Quindi una ragione in più per tenere sotto controllo la salute, e quindi partendo dall'igiene della nostra bocca. Intanto io ringrazio e saluto il professor Alessandro Lualdi per essere stato con noi. Buona giornata, professore. Grazie a voi tutti. Allora direi, professor Levrini, che possiamo lanciare il quiz di oggi, a cui abbiniamo il nostro consiglio di lettura. Qual è il momento ideale per lavarsi i denti? Tre opzioni, professore, le dica lei prima di andare ai mercati. Tre opzioni, la prima subito, la seconda dopo 30 minuti e la terza dopo 2-3 ore. Allora scrivete a esserebenessere@radio24.it. Il primo ascoltatore che invierà la risposta giusta, qual è il momento migliore per lavarsi i denti, riceverà a casa il libro del consiglio di lettura di oggi. Voilà, siamo tornati insieme, in studio con me il professor Levrini e in linea Filippo, ci chiama da Pordenone. Buongiorno Filippo. Buongiorno, buongiorno anche al dottore. Buongiorno Filippo. Ha fatto il compiti Filippo? Si è osservato con attenzione gengive, mucose, lingua? No, però la conosce a memoria la sua bocca. Sì, ormai sì. Io ho una problematica legata alla presenza di afte, sì, che mi si formano sulle parti interne delle guance e del labbro, che sono fastidiose. Per 15 giorni me le porto dietro e pare non vi sia soluzione. Allora quello che chiedo è se esiste un sistema per lenire o se esiste un sistema per eliminarle. E grazie, grazie Filippo. Allora, arrivano all'improvviso cause di queste afte sconosciute? Le cause sono sconosciute, nel senso che ci sono dei fattori predisponenti che portano all'afta, ma delle cause proprio non ce ne sono. Tra questi possiamo riconoscere dei traumi locali, magari gli apparecchi ortodontici possono essere dei traumi locali, lo stress e alcuni cibi come il cioccolato, le arachidi, le mandorle, ma di fatto sono sempre fattori predisponenti. C'è sempre la grande, allora ho l'afta, mi fa molto male, provo con toccature, gel, pomatine varie, oppure sopporto perché poi l'afta intanto guarisce da sé? Ma di fatto non bisogna trattarle se gli intervalli sono brevi e non danno fastidio. Bisogna curare molto l'alimentazione, in particolare nel bambino, perché di fatto questo fastidio, questo bruciore spesso è limitante nel bambino che non mangia. Quindi bisogna facilitare l'alimentazione del bambino dandogli cibi non taglienti e nutrienti come i gelati, i frullati e lo yogurt. fare molta igiene orale, utilizzare dei prodotti specifici contenenti dell'aloe o dell'acido ialuronico che in qualche modo attenuano questo forte bruciore presente in bocca. Servono i colluttori, mi scusi professore, così rispondiamo ad alcuni sms. Ma per l'afta, per disinfettare la bocca? Assolutamente sì, a parte quelli specifici, quindi con dei prodotti specifici come l'acido ialuronico o l'aloe, quelli con clerxidina sono riconosciuti nelle linee guida come dei collutori utili per superare nel modo più rapido possibile questo periodo, che comunque deve essere un periodo abbastanza breve, perché nell'afta minor, cioè quella piccola, questo periodo deve essere ascrivibile a 5 giorni, nell'afta major, cioè quella più grande, più grossa, il periodo bisogna scriverlo alle 2 settimane. Oltre bisognerebbe non preoccuparsi, però comunque andare da uno specialista per far osservare la lesione in modo più attento. Quindi se non guariscono dopo 5, se sono piccole, o 2 settimane se sono più grandi, meglio rivolgersi al medico. Ma quali altre indicazioni possiamo dare sulle afte? Perché io vorrei ben distinguere le afte da delle altre lesioni del cavo orale che spesso magari possiamo confondere con delle afte e invece potrebbero essere delle lesioni precancerose. Sicuramente il fatto che guariscano nei tempi che lei ci ha suggerito, ci ha specificato, è già un buon indicatore. Assolutamente sì, il fattore tempo, come ripetuto 2 volte, è rilevante. Se scompaiono entro 2 settimane, stiamo tranquilli. Oltre bisogna iniziare a preoccuparsi, ma volendo fare un gioco di diagnosi differenziale, quindi distinguere lesioni aftose rispetto ad altre lesioni, bisogna farlo con le lesioni erpetiche, l'herpes. Ecco. La differenza si fa rispetto alla zona dove compaiono. Se compaiono sul palato o nella gengiva che sta a ridosso del dente, quindi quella che si definisce mucosa cheratinizzata, è un herpes, non è un'afta. E già questo pone la differenza. E certo, e come va trattato, professore? Ma allo stesso modo, nel senso, il problema non ci sono dei trattamenti specifici, ci sono dei trattamenti volti a eliminare quel grosso bruciore. Ricordiamo che il termine deriva da aftal, che in greco significa bruciare, e bruciare in particolare nei bambini. Ci sono dei bambini che hanno anche difficoltà a dormire con questo tipo di problematica. Di fatto il laser nelle lesioni più grandi può essere utile, un laser che è specifico, si chiama adiodi, determina un sollievo diretto, rapido, e poi una guarigione più spontanea della lesione. Serve il blu di metilene, ci scrive Ugo da Bologna? Non ho esperienze, posso dire rispetto ai prodotti che vengono utilizzati che recentemente si è parlato di una sostanza che si chiama laurinsolfato, che è un tensioattivo aggressivo che si utilizza nei dentifrici, che potrebbe essere correlato con le afte. Quindi se nel dentifricio c'è questo tensioattivo, magari la semplice eliminazione di questo prodotto potrebbe essere risolutiva completamente. Ho anche una richiesta sugli sciacqui di acqua e sale, se aiutano le afte oppure se è meglio affidarsi a dei prodotti più collaudati su cui c'è più ricerca. Il sale è irritante, dà fastidio, dà bruciore, per cui di fatto nel momento in cui ci sono delle afte, una corretta igiene orale associata a una corretta anche dieta fatta di cibi non aggressivi è la soluzione migliore. Abbiamo parlato di afte nei bambini. I bambini non mangiano, tendono a non mangiare perché hanno dolore, ma mi preme sottolineare, dato che parliamo di afte quindi spesso, no? E quindi anche di gengive e di mucose, mi raccomando, puliamo la bocca dei nostri bambini anche quando non ci sono i dentini, dai primi mesi con una garzina. Professore, approfittiamo di questo spazio per mandare un messaggio alle mamme. Le mucose ci sono sin dalla nascita devono essere pulite dopo ogni poppata, possibilmente, ma almeno 2-3 volte al giorno, o con una garzina imbevuta o con dei ditalini di plastica. Devono essere pulite quotidianamente, anche per abituare il bambino a questa manovra, perché dai 6 mesi, cioè quando comprare il primo dentino, bisogna spazzolare i denti, magari è già più abituato a farlo. Una cosa che lega le mucose del bambino alle afte: spesso nel momento in cui ci sono delle afte ricorrenti piccole nel bambino sono dei segni promettori di celiachia. E quindi magari, se ricorrenti, bisognerebbe segnalare la cosa al pediatra, che nel caso lo ritenga opportuno procede con gli esami di screening per la celiachia. Andiamo a Luigi, ci chiama da Padova. Buongiorno Luigi. Salve, buongiorno a tutti. Senta, una domanda sulla patina linguale. Ecco, perché io vorrei sapere perché si crea e che cosa posso fare per diciamo eliminare questo disturbo. Grazie Luigi. Professore, torniamo alla lingua. Ma si crea perché di fatto le cellule che rivestono la lingua si sfaldano esattamente come si sfalda il derma e quindi di fatto vengono ricoperte di questi tessuti morti della mucosa della lingua. In più si crea perché i batteri si colonizzano facilmente nelle papille gustative. Come vanno rimossi? Meccanicamente o col proprio spazzolino, con dei movimenti che vanno dalla base della lingua verso l'esterno, oppure con degli strumenti specifici che si chiamano nettalingua che vengono comprati in farmacia. Quotidianamente, ogni qualvolta che si spazza, almeno ogni volta che si spazzano i denti. E vi ricordo ancora il quiz di oggi: dopo quando si lavano i denti? Subito? Dopo mezz'ora o quando si ha tempo? Molti ascoltatori mi scrivono quando voglio, solo alla sera, altri scrivono 30 minuti, 20 minuti. Tra poco vi daremo il risultato giusto. Il primo ascoltatore che invierà la mail, voi mi state inviando messaggi, ma dovete mandarmi una mail a essere bene. @radio24.it per ricevere a casa il libro abbinato al nostro consiglio di lettura. Io vado a Torino perché ho Flavia che mi aspetta. Buongiorno a lei, Flavia, benvenuta. Buongiorno. Io parlerei di nuovo di lingua perché ho questo problema. Volevo sapere a che cosa si può attribuire una sorta di screpolatura sulla lingua che interviene di tanto in tanto, soprattutto nella parte anteriore. Di screpolatura come un piccolo canyon irregolare che all'inizio canyon brucia. Canyon non così sì. Profondo comunque per dare l'idea, perché non è perfettamente regolare, e che all'inizio brucia, poi da solo poco per volta si risolve, lasciando poi comunque una piccola traccia con una piccola cicatrice. Non sì, so se, certo. Ecco. È stata lingua bravissima. Fissurata. Come si chiama? Si chiama lingua fissurata questa. E di fatto è un canyon, è una sorta di invaginazione della lingua che in senso longitudinale, che allo stesso modo deve essere detersa, perché il problema è che queste invaginazioni vengono colonizzate da batteri in modo particolare e quindi è opportuno pulirla. Ha un andamento assolutamente benigno, quindi spazzolando la lingua, utilizzando dei colluttori magari contenenti da clorexidina a basso dosaggio, si risolve spontaneamente senza lasciare nessun tipo di esito. Andrei ad Angelo, che ci chiama da Bologna. Angelo, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, il mio mito, brava e preparata. Grazie Angelo. Senza parlare poi degli ospiti che sono sempre in gambissimo, un giorno mi spiegherà a quattro occhi come fa a trovarli. Va bene, volentieri, sono a sua disposizione Angelo. Allora, vediamo il professor Levrini se può esserle d'aiuto. Penso proprio di sì. Allora, il quesito di base è: gomma da masticare sì, gomma da masticare no. E poi da un po' di tempo sono pubblicizzati questi prodotti che contengono sostanze particolari da utilizzare, consigliati in mancanza di una corretta igiene orale, quando non si ha uno spazzolino a disposizione, non c'è il bagno, non c'è l'acqua, eccetera eccetera eccetera. Allora, professor Levrini, per chi non ha, come diceva il nostro amico di Bologna, a disposizione lo spazzolino, l'acqua, il dentifricio e vuole comunque pulire la bocca, mangia fuori, servono questi chewing gum, sì o no? Servono. Quali dobbiamo preferire? Servono sicuramente, però, come accennava lei, non sono sufficienti, però servono sicuramente, perché di fatto la gomma da masticare ha una certa azione meccanica di detersione sul dente, poiché lo sfrega in qualche modo, toglie quella patina che subito si forma una volta si è assunto un cibo. Incrementa la salivazione, questo è un effetto sicuramente positivo per andare a detergere i denti. Gomme da masticare però senza zucchero. Senza zucchero perché di fatto lo zucchero rende il pH della saliva più acido di quello che dovrebbe essere, quindi, come andremo a vedere, rende lo smalto più debole rispetto a quello che dovrebbe essere normalmente. Comunque Assolutamente sì. Assolutamente sì, anche nei bambini possiamo utilizzarli. Ma certo, i bambini non si discute, i denti dei bambini sostanzialmente uguali a quelli degli adulti, il batterio è lo stesso, e quindi questa norma è sovrapponibile a quella dell'adulto. Certo, non come sostitutivo assoluto. Mm. E nel momento in cui c'è l'emergenza dobbiamo preferire alcune gomme da masticare piuttosto che altre, no, perché vengono reclamate. Basta che non abbiano degli zuccheri, quindi evitiamo quelli degli zuccheri. Ma io, a proposito di zuccheri, vorrei parlare di erosione dentale. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Silvio Abati, professore associato di malattie odontostomatologiche all'Università di Milano e direttore dell'unità di Day Hospital e diagnosi orale della clinica odontoiatrica all'ospedale San Paolo. Buongiorno professore, bentornato. Oh, buongiorno dottoressa Carbone, buongiorno a tutti gli ascoltatori e all'amico Luca Ivrini. Ciao Silvio. Allora professore, erosione, già la parola ci mette un po' in allarme. Quando mangiamo, nella nostra bocca proprio scoppia come una battaglia chimica. Che cosa succede? Perché lo smalto in qualche modo può essere danneggiato, avere la peggio? Perché quando i tessuti duri dei denti vengono a contatto con degli acidi, che possono essere intrinseci, cioè provenienti dallo stomaco, oppure estrinseci, cioè dei cibi e delle bevande, vanno incontro a una dissoluzione chimica immediata, con un eufemismo possiamo dire si scioglie lo smalto, molto una sottile straterello superficiale, e questo a lungo andare porta alla distruzione del tessuto duro del dente. Professore, ci sono delle categorie più a rischio? Ad esempio lei ha parlato, da quanto lei ci ha raccontato, mi vengono in mente le persone che soffrono di reflusso gastroesofageo, perché l'acido sale su e in qualche modo potrebbe intaccare lo smalto, è corretto? Certo, quando il reflusso gastroesofageo è grave, questo può succedere. Un'altra categoria di pazienti che possono avere problemi anche seri di erosione dentale sono le persone affette dai disturbi del comportamento alimentare, con il vomito autoindotto, certo, o con la dieta che hanno frequentemente ricca di cibi acidi ed erosivi, e sono molto esposti anche tra le persone invece sane, in realtà, anche che hanno un'ottima igiene orale, i giovani e gli adolescenti, perché la dieta, in particolare per quanto riguarda le bevande ricreative, per esempio gli Alco Pops, oppure tutte le bevande alcoliche, i succhi di frutta, i succhi di agrumi, hanno un effetto immediato di indebolire lo smalto dei denti. Ecco, detto, abbiamo evidenziato le categorie a rischio, i comportamenti a rischio e le situazioni come il reflusso. Che cosa possiamo fare per evitare che lo smalto si eroda? Allora, i principali accorgimenti preventivi sono per esempio evitare di spazzolare i denti immediatamente dopo aver consumato cibi o bibite acide. Allora, il professor Abati ha già dato in pratica una risposta legata al quiz di oggi. Noi abbiamo chiesto infatti agli ascoltatori qual era il momento ideale per spazzolarsi i denti. Il professor Levrini aveva dato 3 opzioni: subito dopo mezz'ora o quando, dopo 3 ore, oppure come suggerivano molti ascoltatori via sms, quando mi capita. Bene, è stata, molti di voi hanno scritto, ma la prima a scrivere la risposta giusta, che è il professor Levrini, a questo punto qual è? Direi dopo 30 minuti, se il professor Abati è d'accordo. Professor Abati, siamo d'accordo, sono i 30 minuti che devono essere lasciati passare per pulire i denti ed evitare quindi di intervenire quando la bocca è in una situazione di difficoltà? Certo. Allora è Tiziana da Torino che ha risposto correttamente, infatti ha scritto una mail a esserebenessere@radio24.it dicendo dopo 30 minuti, e Tiziana riceve a casa oggi il consiglio di lettura. Ed è proprio grazie all'iniziativa di Internet Book Shop che oggi Tiziana, l'ascoltatrice che ha risposto correttamente al nostro quiz, riceve a casa Il Dentista, un libro molto utile che insegna anche alle mamme e ai papà ad occuparsi dell'igiene orale dei loro bambini e quindi a insegnargliela in modo divertente e in modo corretto. In collaborazione con IBS.it. Professor Abbati, e dopo questo piccolo intermezzo, quindi non spazzolate subito i denti, lasciate passare almeno mezz'ora, poi? Poi per esempio sciacquare la bocca con acqua o con latte dopo la consumazione di cibi o bevande molto acidi, bere le bibite acide carbonate, quelle molto gasate, sì, velocemente senza sorseggiarle. Senza tenerle in bocca. Non fate gli sciacqui, insomma. Ecco, che fanno piacere qualche volta sentire le bollicine, ma questo non va bene. Utilizzare dentifrici a bassa abrasività, con pH neutro, con molto fluoro dentro. Adesso, in questo momento, sono presenti sul mercato molti dentifrici di questo tipo. Quindi con questo noi, con queste avvertenze, noi dovremmo riuscire a proteggere il nostro smalto, perché se lo smalto, no, si indebolisce, non torna più, professor Abbati. No, non torna più. E poi alla fin, dopo tempo ci possono anche essere dei sintomi, per esempio l'ipersensibilità al freddo, anche l'ingiallimento precoce dei denti, poi non diventano un po' opachi, quindi è chiaro, non inizialmente, ma dopo l'erosione prolungata, e questo non va bene, perché poi è un po' complicato risolvere. Ecco, quindi prevenire è sempre meglio che curare. Professor Abbati, io la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi. Tenete da conto il vostro smalto, professor, certo, Levrini. Lo smalto, ma anche il cemento che riveste la radice. Giustamente il professor Abbati diceva che lo smalto, una volta venuto meno, purtroppo ci protegge meno la polpa all'interno del dente, però, e qui mi ricordo ancora gli anziani, il cemento è ancora più debole rispetto allo smalto, quindi può essere vittima di queste aggressioni, di questi abbassamenti acidi molto di più dello smalto. E noi chiudiamo con i consigli di Anna Maria Cova, fisioterapista e fondatrice della Cova Tech Pilates School. Dopo esserci occupati infatti di bocca e di denti, ci occupiamo del nostro collo, che tante volte è proprio sotto tensione. Anna Maria, benvenuta. Grazie. Abbiamo un minuto per sciogliere le tensioni. Caspita, dopo aver sentito tutte queste cose dei denti, bisogna subito sorridere, rilassare la mandibola, anche perché è attaccata al collo, è importantissimo. Partiamo quindi con un esercizio semplice ma molto efficace. Anna Maria, allora, proprio riallacciandoci a questo discorso sui denti, la mandibola è molto importante perché è attaccata al collo, per cui facciamo due cose in contemporanea: allunghiamo il collo come se volessimo crescere, sì, e questo già ci permette di dare spazio alle vertebre, che tendono un pochino a schiacciarsi una contro l'altra. Quindi diamo spazio alle vertebre, soffiamo fuori l'aria e mettiamo le due mani sulle mandibole. E da questa posizione lentamente apriamo e chiudiamo la bocca come se fossimo dei pesciolini. E giù, apro e chiudo. Questo lavoro non solo serve per far rilassare i muscoli del collo, ma anche a quelli delle mandibole, che spesso vengono serrati e creano proprio degli sgradevoli sensazioni di tensione al collo. Per cui ci allunghiamo, espiriamo e apriamo e chiudiamo la bocca. Quindi allungamento collo da cigno e respirazione da pesciolino. Anna Maria, vedo che il professor Levrini ha eseguito perfettamente i tuoi esercizi. Ci sono anche altri due esercizi che metteremo sul nostro sito, e sempre sotto la guida di Anna Maria Cova, fisioterapista e fondatrice della Cova Tech Pilates School, per cui se volete saperne di più andate sulla pagina di Essere Benessere. Professor Levrini, grazie. Buongiorno e grazie a tutti. Alla prossima, noi ci sentiamo domani, dopo il GR delle 11. Buona giornata.